24 di Giovanni Minoli. Buongiorno, dunque, continuiamo a modo nostro, diciamo, questa maratona sulle elezioni americane. Donald Trump è il 45esimo presidente, abbiamo sentito il discorso, un discorso unitario, un discorso che cerca di ricomporre naturalmente le lacerazioni che fanno seguito a una campagna elettorale durissima, come ha detto lui stesso, però le parole sue sono parole di unità. E cerchiamo di partire dalla storia di Trump. Chi è Trump? Donald John Trump nasce a New York il 14 giugno del 1946 da Mary Ann e Fred, un ricco imprenditore edile di origini tedesche. Nel 1971 fonda la Trump Organization e diventa un magnate del mattone grazie a una originale intuizione: costruire grattacieli a Manhattan. Il suo volto diventa una delle icone più conosciute del rampantismo anni 80, insieme a Steve Jobs, Bill Gates e Pac-Man. Il credo di Donald è uno solo: lavorare sodo ed evitare inutili protagonismi. In pochi anni nascono il Trump Marina, il Trump Plaza, il Trump International, la Trump Tower e il lussuoso casinò Trump Taj Mahal. Il 2 aprile 1990 il Trump Taj Mahal viene inaugurato con la consueta sobrietà, alcune tartine al tonno e un concerto di Michael Jackson. Secondo la rivista Forbes, il suo patrimonio attuale è di circa 3 miliardi di euro. Saranno più precisi quando finiranno di contare. Si sposa 3 volte e divorzia 2. Dalle mogli Ivana, Marla e Melania ha in totale 5 figli: Donald Jr., Ivanka, Eric, Tiffany e Baron, che lui giura di amare quanto i suoi avvocati. La popolarità mondiale arriva con il programma The Apprentice e con la candidatura alle presidenziali americane del 2016. Vabbè, questa è la storia brevissima della vita, della biografia di Trump, però questa elezione, Mario, mi sembra che naturalmente apre degli scenari che è difficile prevedere in questo momento, ma che sicuramente cambiano l'assetto geopolitico del mondo, perché le dichiarazioni fatte durante tutto il corso della campagna elettorale, che sono state usate come accuse, oggi diventano forse una linea strategica di politica estera, con il rapporto privilegiato che Trump ha sottolineato con Putin. Credo che di lì si debba partire per analizzare lo scenario, e poi c'è l'America. Sì, non ci sono dubbi, la vittoria sorprendente, una grandissima vittoria in tutti i termini, sia di voto popolare che di collegi eccetera, quindi un presidente molto forte, tanto per cominciare, che potrà quindi dare un suo a stabilità, insomma, ecco, non è un'altra zoppa in questo senso. E sul piano geopolitico, a questo punto mi aspetto ovviamente dialogo subito stretto con la Russia. L'incognita riguarda la Cina, perché Trump non ha mai nascosto, anzi ne ha fatto un suo caposaldo, che c'è un problema nel commercio mondiale e quindi con l'export e l'import. Beh, quindi di tutti, per tutti Cina. I piani di accordi sul commercio internazionale sono tutti in bilico, anche certo. Perché su questo mi sembra che come dire, l'unità di intenti e di progetto con la Russia siano abbastanza chiari. Ma certo, lui ha espresso l'idea di collaborare, l'ha detto anche adesso, sì. No? Di collaborare con tutti quelli che ci stanno, avendo chiarissimo l'interesse americano. Quindi interesse, collaborazione, secondo me è partito col piede giusto. È unità del paese. Dice Pietrangelo? Più che dalla vittoria di Donald Trump, adesso è urgente capire la sconfitta di Hillary Clinton. Viene sconfitta una precisa dottrina, che è quella del mondo unipolare. Certo. Viene sconfitta quindi quell'idea degli Stati Uniti come gendarme unico del mondo. Non c'era più, ma c'era un'intenzione ben precisa che nessuno è riuscito a decifrare. A maggior ragione gli analisti, a maggior ragione i giornali, il mondo dell'informazione, il pensiero unico occidentale non è stato in grado di capire che cosa è accaduto realmente. Questo è vero, diciamo che gli sconfitti insieme alla Clinton sono certamente i media. Beh, del media. Mondo. I media del mondo hanno battuto la gran cassa in una direzione quasi univoca e quasi tutti. Quasi tutti. E nel nostro piccolo, scusami Giovanni, posso consentirmi una cosa? Prego. Di fare i complimenti a Mario Secchi, che stanotte è stato un leone, ma soprattutto nel fronteggiare il conformismo obbligato di tutti che non riuscivano a vedere la realtà nel frattempo che questa si manifestava. Sì, questo naturalmente. Grazie. Vabbè, ci fa piacere perché noi abbiamo tenuto aperto certo. la divaricazione della riflessione fino all'ultimo, segnalando come avevamo già fatto per la Brexit, perché io penso che ci sia una certa analogia di situazione nella lettura di quello che è capitato in Inghilterra e quello che è capitato negli Stati Uniti. Dimmi Mario, di pure. No, sono assolutamente d'accordo con la tua analisi del continuum tra Brexit e Trump. Trump è un evento epocale, cioè una non cosa... continuum, però ci sono analogie. Sì, sono forti. E c'è, c'è il convitato di pietra, che tanto di pietra non è in questa storia, e che si chiama Barack Obama. Perché secondo me la sconfitta sta sulle sue spalle. Diciamo che non è che porta fortuna Obama, perché a Cameron è andato là e gli ha detto ok Brexit, boom. Adesso con Renzi gli ha detto sì, io l'altro giorno gli ho detto a Renzi, dico, ma sei sicuro che è una buona cosa? A proposito di Renzi, vi vorrei segnalare un tweet di Fabrizio Rondolino, che è uno dei consiglieri più ascoltati di Renzi. Non so se è uno dei più ascoltati, ma dai. Comunque Rondolino dice una cosa che è significativa, cioè il suffragio universale comincia a rappresentare un serio pericolo per la civiltà occidentale. Vabbè, ok, d'accordo. No, vabbè. Rimasto Obama. Sì. Allora, Obama ha fatto campagna per Hillary in maniera pesantissima fino all'ultimo giorno. Anzi, aveva detto che non avrebbe fatto scelte, non sarebbe sceso in campo. In realtà è sceso in campo. Ci sono due mandati di Obama sui quali a questo punto pesa un giudizio dell'elettorato americano che ha votato Trump, voglio dire Trump. Comunque a me interessa molto avere anche un punto di vista diverso da un altro punto di osservazione del mondo che è molto interessante per noi, e volevo dire, mi vorrei collegare con Alberto Negri, collega del Sole 24 Ore, che naturalmente non è in America. Alberto, dove sei? Io mi trovo a Erbil, vicino a Mosul. Ieri ero a Bashika, la città assediata dai Peshmerga, dove una mezza dozzina i jihadisti stanno tenendo in scacco 2.000 combattenti, 2.000 curdi. Questo la dice tutta sulle difficoltà che ci sono a battere la resistenza dell'ISIS. In mezz'ora ho visto esplodere 3 autobombe. Ecco. E a Mosul, verso la strada verso Mosul, stanno spianando una strada militare. Questo è il segnale evidente che ci si prepara a un lungo assedio. Ecco, ma vista da lì, ecco, per questo mi interessava il collegamento con te, vista da un osservatorio molto particolare, importantissimo per quello che ci riguarda, che effetto fanno queste elezioni americane? Nessuno, qualcuno? Io penso che quello che ho sentito adesso sono tante chiacchiere. Sì. Tante chiacchiere, cari signori, perché qui si sta combattendo una guerra, e le guerre non si sa quando si cominciano, non si sa quando finiscono. Questo lo diceva Churchill, ma lo possiamo dire anche noi dal nostro osservatorio ben più modesto. La politica americana cambierà, ma non potrà cambiare alcuni dati essenziali. Per esempio il coinvolgimento in Medio Oriente, quello è stato deciso dalla signora Clinton ed è continuato anche con Obama. Si pensava in qualche modo di guidare da dietro, leading from behind, quello che erano i grandi rivolgimenti del Medio Oriente, ma adesso gli americani sono qui, sono tornati in quell'Iraq che avevano abbandonato nel 2011 e non se ne andranno certamente adesso che da poche centinaia di chilometri da qua c'è la Russia. Quindi continuerà comunque questo coinvolgimento militare, perché qui si sta giocando una partita geopolitica e strategica essenziale. Ecco, appunto, proprio da questo punto di vista, Trump ha sempre scelto, anche in modo abbastanza impopolare, Putin come interlocutore strategico nelle sue dichiarazioni, diciamo, durante la campagna elettorale, e non erano certo delle dichiarazioni che gli portavano, come dire, un consenso sicuro. In realtà probabilmente ha identificato una strada. Allora, Trump durante la campagna elettorale ha dichiarato che Putin, la Siria e l'Iran sono i veri alleati degli Stati Uniti nella guerra contro il terrorismo. Su questo punto probabilmente ha anche ragione, e forse ci saranno anche delle modifiche di tono, forse anche degli accordi sul campo che potranno in qualche modo determinare questo tipo di politica, però allo stesso tempo Trump sa benissimo, glielo diranno il segretario di Stato prossimi, il consigliere della sicurezza nazionale, il ministro della difesa, che non si possono abbandonare certi alleati che sono anche clienti importanti. Per esempio l'Arabia Saudita, che era tanto amica della signora Clinton, Obama ha venduto 98 miliardi di dollari di armi in 8 anni di presidenza Riyadh. 98 miliardi in qualche modo dovrà qualcosa al sistema industriale militare americano. Ecco, ma per fare un'analisi un pochino dettagliata paese per paese, tu sei lì e ci stai spiegando qual è la situazione di questa guerra e come può evolversi. Tu fai una previsione, visto quello che stai vedendo? La mia previsione è questa, che sarà una lotta molto più lunga di quello che si pensa e oltretutto con attori dal comportamenti ambigui e difficilmente comprensibili a volte. Prendiamo per esempio la Turchia, alleato della NATO storico. Con Erdogan è entrato militarmente sia in Siria che in Iraq, si è messo d'accordo con Putin per avere come obiettivo i curdi siriani e non tanto l'ISIS o il califfato. Ad Aleppo probabilmente Putin riuscirà a conquistare una vittoria. Poi però gli americani hanno dovuto concedere a Erdogan di mettere dei militari a 20 chilometri da Mosul e poi in qualche modo di farli partecipare anche a quella che sarà la battaglia di Iraq. Ebbene, di fronte a tutte queste ambiguità di una Turchia che per esempio è stata utilizzata dalla signora Clinton per far fuggire i jihadisti che dovevano abbattere Bashar Assad, anche Trump dovrà avere a che fare. Dovrà avere a che fare, ma della politica estera non facili da risolvere. Non facili da risolvere, però di certo che non sono facili da risolvere, perché come dicevi giustamente te, in ballo ci sono interessi consolidati pazzeschi che non possono essere, come dire, sciolti come neve al sole. Però sicuramente se si parte con un'idea di un'alleanza strategica con la Russia, e l'Iran, si chiarisce un pochino lo scenario di fondo. Sì, ma non credo che sarà molto facile per gli Stati Uniti fare un'alleanza strategica con l'Iran o con la Russia. Pensiamo anche per esempio al fatto che tra gli alleati storici degli Stati Uniti in questa regione c'è Israele, che è un nemico giurato di Teheran. Quindi attenzione, perché è vero che Trump ha promesso alcune cose, ma bisognerà vedere se saprà mantenerle rispetto agli interessi americani. Quando si dice che Trump è un isolazionista, è come dire facciamoci un'iniezione di nirvana. La superpotenza americana non può essere isolazionista, può pompare per esempio più petrolio, però non può non occuparsi di quelle che sono le vie del trasporto del petrolio e di quello che è il Golfo Persico. Quindi tu dici i nodi al pettine arriveranno molto molto in fretta. Ci sono dei pilastri della politica americana che non si possono in qualche modo cambiare dall'oggi all'indomani, e anche Trump dovrà in qualche modo scontrarsi col principio di realtà. Grazie Alberto, mi sembra che vista dal suo punto di vista i problemi sono problemi molto molto complessi che Trump dovrà affrontare in fretta anche. Sì, sono d'accordo con Alberto, c'è il principio di realtà, che va rispettato, però io penso che Trump comunque sarà uno shock. Uno shock sicuramente, sarà uno shock tale per cui alcuni dogmi, diciamo, che valgono oggi probabilmente non varranno più. Per esempio? Ma per esempio secondo me siamo in presenza di una nuova Yalta. Se tu sostituisci la figura di Stalin con quella di Putin, la figura di Roosevelt con quella di Trump e l'altro attore, la figura di Churchill con quella di Theresa May, tu hai un nuovo asse fondato una nuova teoria della politica. Infatti sfera di influenza transatlantica e accordo con appunto il gigante. E quindi vedremo l'Europa come riuscirà in questo contesto a trovare la sua strada. Dicevi Pietrangelo tu. Mario, io invece intanto Mario Platero di Pietrangelo. Sì, se rispetto a quello che dici tu, Mario, però c'è una novità. e cioè che l'Inghilterra ormai ha separato il suo destino dall'Occidente ancor più che dall'Europa. Certo. Mentre invece l'attore chiave è il continente eurasiatico, dove la Russia, per esempio, ha da risolvere un problema fondamentale con la Cina, e Trump è l'interlocutore ideale per risolvere questo problema. Sì, sì, sì. Insieme. Io farei un altro paragone storico, lo farei più recente. Lui è uno shock nell'orizzonte contemporaneo, esattamente come lo fu Reagan. Ma se Reagan fu il costruttore della dottrina secondo la quale l'impero del male era l'Unione Sovietica morente, adesso invece è ribaltato lo schema. Cioè lui sarà l'interlocutore di questo continente eurasiatico e affiderà proprio alla Russia anche la gestione di questo giardino dove siamo noi. Ecco, abbiamo il direttore della stampa in linea, Molinari. Sì, pronto? Ciao. Senti, allora? È stata una notte che ha cambiato il volto dell'America e recapita al pianeta intero un messaggio molto forte. Il popolo della rivolta che ha eletto Donald J. Trump bussa alle porte delle nostre case. Ecco, ma vedi un'analogia? C'erano state già le avvisaglie con la Brexit di qualcosa del genere, cioè i popoli contro l'elite. Sì, questo è sicuramente il fenomeno, ma non in questa dimensione. Beh, certo, l'America è l'America. 57 milioni di americani che vanno alle urne per eleggere un candidato che il suo partito non voleva, consegnandogli non solo la Casa Bianca ma il controllo completo del Congresso e tutti gli stati in bilico, espugnando le roccaforti democratiche. È un terremoto sociale prima che politico, le cui conseguenze noi le avremo per gli anni a venire. Non c'è dubbio, è finita la transizione post-Yalta, insomma sta cambiando probabilmente anche l'ordine mondiale. Siamo passati dalla speranza di Barack Obama alla rabbia di Donald J. Trump, con il quale il mondo intero, a cominciare da Putin, dovranno fare i conti. Sì, dovranno fare i conti, ma anche i media del mondo dovranno fare i conti con questa realtà, perché bisogna avere anche il coraggio di dire che la scoperta del fenomeno Trump è stata tardiva e anche superficiale. L'identità del movimento di Trump è anti-establishment. Il fatto che l'intero establishment abbia sostenuto in maniera compatta Hillary Clinton, repubblicani e democratici assieme, in realtà lo hanno aiutato. Sì, ma io dicevo, la responsabilità dei media è una responsabilità di lettura superficiale di quello che stava accadendo in America, oppure no? Assolutamente sì, è stato il conflitto fra il politicamente corretto e il politicamente scorretto. I media sono stati corretti e il popolo americano in questo momento vuole essere scorretto. E in questo senso io facevo un parallelo con la Brexit, e se vogliamo tornare indietro nel nostro piccolo cortile, anche con quello che è capitato con Berlusconi all'inizio. Insomma, i popoli poi in realtà nelle svolte della storia sorprendono. Assolutamente, in questo caso la genesi di questa sorpresa è lo scontento e il disagio per l'impoverimento della classe media, qualcosa che dobbiamo tenere ben presente. Ben presente anche da noi, ed è curioso come un presidente degli Stati Uniti come Obama in realtà prima con Cameron sia andato a sostenere la Brexit senza in realtà percepire le trasformazioni che erano in atto, e adesso capitata la stessa cosa con Renzi, vedremo le conseguenze eventuali anche da noi, perché Renzi si era speso, diciamo, pubblicamente anche negli ultimi giorni per Hillary. Assolutamente, la cosa che colpisce di più fra i tanti eventi rivoluzionari consumatisi questa notte è stato lo spostamento della classe operaia da Obama a Trump. Cioè, Trump ha vinto grazie agli stessi elettori che 8 anni fa e 4 anni fa, perché disagiati, votarono per Obama. È come se il popolo dei diseredati si stesse completamente spostando, cercando nuovi leader non sono più rappresentati dai partiti tradizionali. Esattamente, io insisto sul parallelo perché ricordo la sorpresa di tutti in Italia quando Mirafiori votò compatta per Berlusconi. Assolutamente, e l'interrogativo adesso è come questo fenomeno partito con la Brexit, arrivato negli Stati Uniti, rimbalzerà sul nostro continente. Esattamente. Grazie, grazie. Grazie Maurizio. Sì, questo è il tema. È il tema degli effetti che possono avere sull'Italia, sull'Europa, perché sì. In Europa è partita una trattativa durissima. In qualche modo Renzi sta tentando di recuperare una posizione trumpiana verso l'Europa, sì. No? Lo scontro con Juncker dell'altro giorno segnala, forse è una cosa tardiva, ma segnala una presa di coscienza di questo atteggiamento. Le modalità con cui è venuta la elezione di Trump, i numeri, perché non accadeva dal 1928 che fossero consegnati al Partito Repubblicano la Casa Bianca, la Camera e il Senato tutte insieme, la stabilità che ne deriva, il programma politico e così via, mi fanno pensare, e spero soprattutto da cittadino europeo, che questo sarà uno shock salutare per l'Europa, anche perché l'alternativa era quella di avere Hillary Clinton che avrebbe proseguito. Vabbè, non ce l'abbiamo, linea... non ce l'abbiamo, quindi oramai no? Appartiene a un'ipotesi del passato. E quindi io penso che il fatto di avere Trump metterà carburante a un processo riformatore, e se questo non dovesse avvenire, se non dovessero esserci risposte, ci sarà la reazione di chi vota, degli elettori, cioè è abbastanza chiaro. Mario, abbiamo in linea Mario Platero da New York. Ciao Mario. Pronto? Mario? Eccoci. Ecco, ciao. Pronto. Senti, non so se hai seguito un pochino il nostro dibattito, forse eri impegnato. Sì. Ecco, ho seguito un pochino, dimmi tutto. Tu cosa pensi che sia, quale può essere, diciamo, la conseguenza immediata sull'Europa delle elezioni di Trump? Cioè, allora, guarda, Giovanni, io ti dico questo subito come reazione a caldo. Cioè, è difficile oggi fare dei pronostici, perché le carte sul tavolo dello scacchiere internazionale con Trump si rimescolano. Certo, come diceva anche Negri. Possiamo immaginare qualunque dinamica, ascoltavo prima Negri, degli scenari, dei possibili sviluppi, ma in realtà sono degli scenari e degli sviluppi che poggiano su un quadro politico che appartiene al passato. Donald Trump è il primo presidente nominato, eletto negli Stati Uniti che non viene da un background politico, è un outsider. Certo. In 240 anni di storia non era mai successo, questo ti dà la portata di questa elezione. Mi ha colpito molto, devo dire, il suo discorso, è stato un discorso unitario, moderato. È stato un discorso in cui ha aperto molto al consiglio anche dell'opposizione, si è congratulato con Hillary Clinton. Insomma, Donald Trump sa di avere una grande occasione per le mani, quella davvero di cambiare in qualche modo la storia. Il suo rapporto con l'Europa sarà un rapporto difficile. Quando si parla di isolazionismo non è soltanto sul piano militare, non credo, lui cerca di negoziare, ma lo è forse dal punto di vista commerciale, certo, dal punto di vista economico. Abbiamo visto le reazioni dei mercati internazionali, sono preoccupati perché a giudicare da quello che ha detto Trump c'è un impianto multilaterale su cui le economie sono cresciute, certo, su cui quindi i paesi, diciamo, hanno dialogato, che crolla, certo, che potrebbe crollare. Ecco, comunque una cosa è chiarissima, internet ha cambiato tutto, perché la gente si costruisce le idee da sola e si fa nel bene, nel male, non si fa imboccare più tanto dai media, anzi non si fa proprio più imboccare dai media tradizionali. Questo è qualcosa che cambia completamente anche il ruolo della comunicazione. Completamente, ti do un dato, ci sono stati 340, mi pare, o 46 giornali americani che si sono schierati con Hillary Clinton, soltanto 9 hanno appoggiato apertamente Donald Trump. Cioè, come dire che non contano, ecco, niente i giornali, contano, se vogliamo. Possiamo dirlo, almeno oggi possiamo dirlo, che non contano niente. Popolare sottostante. Esattamente. Grazie, grazie Mario. Sì, dobbiamo andare in pubblicità, sì, e poi continuiamo. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. State ascoltando un programma offerto da... Pneumatici invernali Yokohama V905. Metti i tuoi sensi in contatto con la strada. Mix 24. Ecco Mario, per chiudere questa pagina americana, sì, una cosa è chiarissima. Basta con la dittatura dei mercati. Non è che dicono la verità, non capiscono. Spesso non capiscono molto, non è vero che anticipano, che hanno capito, no, che fanno, perché anche qui non hanno capito niente, come non avevano capito niente nella Brexit. Ci sono due, secondo me, due fenomeni interessanti. I mercati cercano di anticipare gli eventi, il problema è che rispetto... È come giocare al Superenalotto. Il problema è che secondo me comincia ad essere preoccupante, perché io queste cose le leggo, tutti le leggiamo, e la loro scarsa capacità di analisi, non avevano visto la Brexit. Non hanno visto, e non questo, hanno visto Trump. Cioè, ne vedono poche, insomma, quando l'interesse è solo monetario, forse si capiscono poco i grandi movimenti dell'umanità. Ci sono decine di report delle banche d'affari che dicono vince la Clinton sicuro. Ecco, appunto. Non ultima Goldman Sachs. Forse speculavano al ribasso sulla vittoria di... Ieri, per tornare da noi... Ieri è scomparso Umberto Veronesi, aveva 90 anni, una vita spesa a combattere il cancro. Due le sue parole d'ordine, ricerca e laicità. Ecco, ascoltiamo un brano di un faccia a faccia fatto con lui nell'84. Il cancro è la malattia più antica dell'uomo. Se ne parlava 2000-3000 anni fa. Esistono documenti che già nei dinosauri del periodo mesozoico esistevano i tumori. Professore, ma lei ai suoi pazienti malati di cancro glielo dice o no che ce l'hanno? La verità deve essere detta, ma la verità è come una medicina, va somministrata a piccole dosi, e a piccole dosi può essere utile ed efficace, a grandi dosi può essere pericolosa. E in concreto sceglie caso per caso? No? Quindi bisogna valutare nel paziente se i suoi meccanismi di adattamento sono rapidi o lenti. E se sono lenti, la somministrazione va eseguita e condotta con molta accuratezza. Ecco, cautela. Ma sono molti i casi in cui al malato serve sapere di essere malato di cancro per lottare di più? Se la verità è accompagnata anche una consapevolezza di poter guarire, sì. Ma se la prognosi è brutalmente dichiarata come gravissima o mortale, allora la verità non serve. Senta, ma secondo lei in che misura un paziente può trovare forza in questa, nella coscienza della sua situazione, solo se ha speranza di vita? Innanzitutto se c'è una speranza di vita, perché la vita è il nostro bene maggiore e senza questa speranza non si può pensare di lottare. Ma esistono in queste circostanze delle forze che il paziente stesso spesso non conosce e che si rivelano prepotenti in questa condizione. Professore, in un libro sul dolore uscito qualche tempo fa, lo psicanalista Servadio nella prefazione scrive, lo leggo testualmente: il dolore va considerato senza rivolta e senza pietismi. Se si ritiene di doverlo fronteggiare, alleviare o deviare, lo si deve in primo luogo conoscere. Ecco, lei ritiene di conoscere il dolore umano? Io ritengo di conoscerlo. Devo dire che il dolore, soprattutto in questa definizione, è uno strumento di difesa, un utile strumento di difesa nel nostro organismo, è una forma di prevenzione delle nostre malattie, ma nei tumori fa eccezioni. I tumori, il dolore non ha nessun significato utile e quindi va combattuto con decisione. Ecco, ma nel tempo la sua esperienza del dolore altrui in qualche modo l'ha cambiata o no? Vivere nel dolore modifica la personalità. Penso che chi vive nel campo dei tumori sviluppi una doppia personalità, una personalità profonda, quasi nascosta, negativa e pessimistica, che rimane però per fortuna in gran parte occulta nel sottosuolo, come direbbe Dostoevsky, e una personalità invece attiva, quotidiana, determinata e anche rafforzata da ottimismo se si vuole reggere al confronto e se si vuole continuare nella ricerca. Ecco, ma lei cosa le ha insegnato di più il dolore degli altri? Convivere con la morte, insomma. Beh, una grande forza d'amore. Professore, secondo la sua esperienza, che cosa nasce oltre alla sofferenza, diciamo, dal dolore umano? Nasce una nuova filosofia che qualche volta è un insieme bizzarro di materialismo e di misticismo. Interessanti queste parole di un grande come Umberto Veronesi. Interessante questa notizia che è stata battuta adesso: Hillary Clinton concede la vittoria a Donald Trump e nella Duma, cioè in Russia, la Camera Bassa del Parlamento russo, scattano gli applausi fragorosi dei deputati e il presidente della Camera ha detto di sperare adesso in un dialogo più costruttivo tra Stati Uniti e Russia. Un pochino quello che avevamo detto, il Parlamento russo accoglie e sostiene qualsiasi iniziativa in questo senso. Beh, sì, mi pare che siamo lì, no? Sì, dall'altra parte adesso è uscito il ministro degli esteri francese pochi minuti fa, Jean-Marc Ayrault, che dice che la vittoria di Trump, dice, pone delle questioni essenziali alla democrazia, sì, alla diplomazia, scusate, dice che cosa ne sarà dell'accordo di Parigi sul cambiamento climatico, eccetera. La reazione. Però, come dire, sono tutti sorpresi. Perché... è sulla linea di Rondolino, come sì, diceva... Come diceva Pietrangelo, ministro degli esteri, l'Europa si è svegliata e ha trovato che la Casa Bianca c'è Trump, va in un altro modo. Però, vabbè, senti Mario, Pietrangelo, mi fai il tuo salamino di oggi? Ciò che piace alla gente che piace non piace più, ha vinto il Bru. Hillary Clinton, infatti, dove vince? Nel Maine oppure nel distretto della Columbia? Praticamente il 93%, un po' come il Partito Democratico che stravince ai Parioli. Allora, tutti gli uomini chic e le femmine pittate davano per certo la vittoria della rivale di Monica Lewinsky, ma la Casa Bianca è diventata la nuova Bastiglia, anzi di più, il nuovo Palazzo d'Inverno. Forse ha ragione la divina selvaggia Lucarelli: più che la sconfitta di Hillary Clinton, questo è il tramonto di Madonna. Tutto quel profluvio di favori orali promessi a chi avesse votato la moglie di Bill non ha funzionato. Insomma, tutti hanno scelto il boccolone tirabaci color polenta di Donald Trump. Tutti, eccetto gli uomini chic e le femmine pittate del pensiero unico altolocato. Per cui VIP, semi-VIP, star, semi-star, pensatori, pensatisti e statisti di provincia, il più provinciale dei quali Matteo Renzi, da presidente del Consiglio, ricordiamolo, ha fatto quello che il galateo istituzionale proibisce categoricamente, cioè quello di interferire sulla campagna elettorale in corso in un'altra nazione con una dichiarazione di voto. Ora, uomo chic, uomo chic, ma ti ricordi anche da te, l'ha ripetuto. Lui gli piace Obama. Sì, però lui è il presidente, insomma, il presidente però del Consiglio. Però in Europa sta combattendo adesso per l'Italia, dai. Uomo chic è pittato qual è Renzi, che ha fatto? Scusa, insomma, ha fatto questo endorsement per Hillary Clinton, ma se i nemici così a bocce ferme il nuovo presidente degli Stati Uniti, insomma l'alleato è il suo, come dire, il cane non è mio. Allora adesso deve correre ai ripari questo povero Renzi, ma lui chic e pittato qual è? Cosa potrà fare, caro Giovanni? C'è un sacco di carte da giocare. Ecco, secondo me le carte più importanti. Tanto Briatore. Bravo. Gli toccherà nominare ambasciatore in America Flavio Briatore, perché è amico personale di Trump. Ma poi la vera... risolverà il turismo. La vera carta da giocare, lo sai qual è, Giovanni? Quale? No. Aiutarsi con un'altra amica personale di Trump, ben più che amica di Trump, lo fu, ed è Lori del Santo. Ah. E Lori del Santo, lo sai cosa... alla direzione della terza rete. Bravo! Divertente, stanno... l'ultima battuta, Mario, aggiorna. Sì, no, stanno cominciando gli aggiustamenti diplomatici. Il ministro degli esteri Paolo Gentiloni ha detto che l'Italia conferma l'amicizia agli Stati Uniti. Va bene, per fortuna. Ci mancava anche e volevo vedere anche il contrario. Vabbè. Già, il marchese Fulvio Abate ha un nuovo tweet meraviglioso. Dai, dice Muriu Ucani, gli intenditori capiranno. Muriu Ucani. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, pubblicità. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Pneumatici Invernali Yokohama V905. Metti i tuoi sensi in contatto con la strada. Mix 24. Dunque, Vladimir Putin è ufficiale, ANSA delle 9.44, si è congratulato con Donald Trump per la vittoria, si augura che i rapporti russo-americani possano uscire dalla crisi. Il presidente russo, si continua, che ha inviato un telegramma al nuovo presidente degli Stati Uniti, si dice sicuro che il dialogo tra Mosca e Washington, basati sul rispetto reciproco, rispondano agli interessi dei due paesi. Lo fa sapere il Cremlino, quindi mi pare che c'è voluta mezz'ora perché partisse il nuovo scenario internazionale. La sconfitta dei falchi. Mi pare che dei falchi molto interessante, questa cosa. La politica comincia a cambiare, vedremo appunto gli aggiustamenti piano piano di tutti gli interlocutori. Io mi aspetto un imminente accordo sulla Siria a questo punto. Perché la collaborazione col Pentagono era difficile, perché Obama ce l'aveva con Putin per la Siria. E naturalmente la Clinton era l'ipotesi peggiore. Cosa, Mario, scusa se ti interrompo, sì. Una cosa che mi colpisce, sì. Che la Clinton non ha parlato, non ha ancora parlato, no. E ha fatto sapere che parlerà nelle prossime ore. Cioè una botta tremenda, cioè non ce la fa ma parlare. Io sono rimasto come te colpito da questa cosa. Cioè ha mandato John Podesta a parlare a con la folla e ha mandato via tutti. Devo dire, sono rimasto veramente... basito. Com'è che diceva la canzone? Bisogna saper perdere. Bisogna saper non sempre perdere. Si può vincere. Non sempre si può vincere, punto. Mi sembra che stiamo là, Pietrangelo, che dici? E anche la spocchia tramonta. La spocchia tramonta. Sì. Sì, no, neanche, perché c'è spocchia in questo modo di perdere. Sì. Non c'è umiltà. Lei... L'umiltà della sconfitta ti porterebbe a dire, vengo, ho perso. Complimenti. C'è un'altra cosa interessante, guarda, queste elezioni sono pazzesche, sono di una bellezza unica per la ricchezza di argomenti che stanno tirando fuori. La cosa interessante è che la Clinton ha perso in quelli che Michael Moore, devo dire con grande intuito, aveva chiamato i Brexit States, i nostri Brexit States, cioè quelli dei Grandi Laghi. E effettivamente il muro della Clinton è crollato non con la Florida e l'Ohio, ma con gli altri, con Michigan e tutti quelli, cioè, e sono gli stati dove ci sono gli operai. È quello che abbiamo detto, tutta la trasmissione che diciamo, cioè, e facciamo un'analogia nel piccolo con Mirafiori. Sì, gli operai hanno cambiato idea. Allora, hanno cambiato si fa idea. Tanto parlare a sinistra, lo spiegò si bene, parla scusami, di classe Mario. Operaia, eccetera. E questa è la classe operaia che ha votato. In una celeberrima puntata di Santoro operaia. Lo spiegò bene un operaio di Sesto San Giovanni che aveva votato per Berlusconi, quando disse: tanto la sinistra si occupa soltanto di diritti dei gay e degli immigrati. A me che sono operaio, chi ci pensa? Mi sembra che la domanda sia pertinente. E per chiudere in questa giornata speciale, sentiamo Gloria Guerrera che cosa ha scelto per noi. Oggi ho scelto una canzone per chi proprio da oggi avrà voglia di fare l'americano. Renato Carosone. Porte canzone con uno stemma a rete, una cuppulella che vi si era aizzata, passa scampagnando per tu l'ete, con mano a papà te fa guardare. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi ti fa fa. Vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock e roll, tu gioca baseball, fai sorte per camella, chi te li dà la borsetta di mamma, tu fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, siente a me non c'è sta niente fa. Ok napolitan, tu vuoi fare l'American, tu vuoi fare l'American.